Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti nell'attesa che parta Cuore Denari il 7 ottobre con Deborah Rosciani. Mandatemi un messaggio al 349-238-6666. Non badate a quello che scrivete, ma a come lo fate, o meglio, a quale dito utilizzate. Il dito con cui scriviamo i messaggi fa la differenza. Io non mi ero mai soffermata su questo dettaglio e mi ha aperto gli occhi un articolo di Anna Meldolesi, giornalista del Corriere della Sera, che è in linea con noi. Ciao Anna. Ciao, buongiorno a tutti. Insomma, il dito con cui scriviamo i messaggi rivela l'età. Questo ce l'abbiamo sotto gli occhi ogni giorno tutti noi, ma insomma è dimostrato. Sì, diciamo gli ultimi dati vengono da una ricerca commissionata da Microsoft in Francia che ha indagato le abitudini appunto dei francesi, ma potrebbero essere benissimo gli italiani o qualunque altra popolazione nell'utilizzare i touchscreen, quindi diciamo o gli smartphone o i tablet, comunque quei device, quegli attrezzi in cui basta toccare lo schermo, no? Quindi senza una tastiera classica. E hanno rilevato quello che se ci guardiamo un attimo intorno possiamo notare guardando i nostri figli oppure i ragazzini alla fermata dell'autobus all'uscita da scuola. Sono molto più veloci degli adulti e utilizzano proprio le dita in modo diverso. In particolar modo la maggior parte di chi ha meno di 35 anni utilizza almeno due dita, mentre sopra i 35 anni si tende a usare un dito solo. E in questa categoria diciamo più giovane si tendono a usare i pollici, mentre invece tra gli over 35 si tende a utilizzare l'indice. Questo comporta un modo assolutamente diverso, insomma, un rapporto diverso con il touchscreen, per cui diciamo guardandoli insomma sembrano assolutamente velocissimi, versatili, virtuosi, sì. Insomma, quasi dei pianisti, no? Invece rispetto agli adulti che i pianisti pensano... del pollice. Sì, assolutamente. Sì. Questa diversa modalità è interessante non solo perché denota diciamo una caratteristica di costume, diciamo quindi una spartiacque generazionale, ma anche perché ha qualche eco insomma di tipo scientifico evoluzionistico, no? Perché il pollice è una caratteristica molto studiata dai biologi evoluzionisti, un argomento classico, un evergreen insomma dal punto di vista della biologia, perché è considerato una caratteristica che contribuisce a renderci umani rispetto alle altre specie. E quindi in questo utilizzo diverso del pollice sappiamo anche che abbiamo un'indicazione per come evolveremo, Anna? Ma no, diciamo che l'evoluzione ormai è una cosa abbastanza complicata in cui si mescolano l'evoluzione biologica e l'evoluzione culturale, quindi qui sicuramente diciamo c'è una preponderanza dell'evoluzione culturale più che biologica, però si può assolutamente immaginare l'evoluzione dell'uomo attraverso il diverso modo in cui ha utilizzato il pollice, no? Dai nostri antenati che utilizzavano certo. Questa capacità del pollice di unirsi alle altre dita magari per arrampicarsi, a poi i primi uomo che hanno iniziato a utilizzarlo invece per scheggiare, no? le selci, iniziare quindi il cammino verso la tecnologia, a noi che lo usiamo in maniera diversa, sempre più particolare, dal suonare un pianoforte fino appunto al messaggiare gli amici, insomma, dal punto di vista del pollice, dell'evoluzione del pollice, sono due abilità del tutto paragonabili, no? Anche se quindi se vogliamo dimostrarci un pochino più giovani bisogna che ci alleniamo ad andare veloci col pollice sul nostro smartphone, se no insomma mostreremo l'età. E il pollice racconterà la nostra età. Grazie ad Anna Meldolesi per essere stata con noi. Buona giornata, Anna. Grazie. Così diverso, così prezioso, ma tempi duri per i giovani pollici che sono chiamati a un lavoro supplementare. Andando di questo passo rischiano lo stress. Buongiorno al dottor Davide Smarelli, chirurgo della mano, responsabile di unità della chirurgia della mano all'Humanitas Gavazzeni. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. È piccolo, è tozzo, rispetto alle altre dita della mano, insomma, non sembra, no, il meno bello, eppure senza di lui la funzione della mano sarebbe compromessa o, per essere più precisa, molto diversa. Assolutamente. Il pollice è un, innanzitutto grazie per questa premessa ontogenetica dalla nostra giornalista che ci ha preceduto, la dottoressa Meldolesi. Il pollice, possiamo semplificarlo nella sua grande complessità anche dei movimenti, delle funzioni, come un eccezionale compromesso. Nel contempo il pollice ci permette di fare delle prese estremamente precise, delicate, sì, ma nel contempo anche di essere l'elemento più forte, quindi di darci forza, dare forza alla mano, di permetterci quindi di essere nel contempo dolce, delicato, ma anche estremamente forte e a volte rude quasi nelle funzioni che la nostra mano deve fare. La nostra mano è l'espressione del nostro cervello, quindi l'interazione cervello-mano è assolutamente dimostrata. E la mano è ben rappresentata nel cervello. Il cervello è vero, rappresentata, dottore, da quel mostriciattolo che chiamiamo homunculus, in cui abbiamo la rappresentazione un po' della sensibilità e della funzionalità dei nostri organi, dei nostri apparati, e la mano è molto rappresentata. Questo homunculus è un piccolo mostriciattolo che ha una bocca molto grande, una mano molto grande, il resto del corpo invece ha dimensioni normali o perlomeno limitate rispetto alle due strutture precedentemente dette. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde per intervenire in trasmissione. Come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter, oppure mandatemi il messaggio al 349 238 6666, e osservate con che dito usate per farlo. Ciascuno di noi sa la sua età, ma magari potreste misurare quanto siete abili, quanti messaggi mandate, se le vostre dita sono allenate, pollice o indice, come rispondono. Dottore, un dito, abbiamo detto, molto importante, il pollice, che cura la regia di tutta la mano, e anche ci possiamo considerare, ed è una spia anche generale del benessere. Se sta bene il pollice, la mano sta bene, così? Beh, indubbiamente, essendo molto importante nella funzionalità della mano, le informazioni che il nostro pollice ci può dare sono da prendere, da assolutamente non sottovalutare. E a volte possiamo, basti pensare a quello che riusciamo a fare, prendere un foglio, a semplicemente abbottonarsi, sì. Sono tutte manovre a cui non diamo apparentemente importanza, ma che in realtà risultano molto importanti, e se noi dovessimo iniziare ad avere qualche disturbo nel fare già queste semplici cose, già potrebbe essere un campanello d'allarme che potrebbe così quantomeno aprire un po' la nostra mente e farci pensare se tutto va bene. Quindi possiamo dire agli ascoltatori, provate a prendere un foglio? Assolutamente, un primo test può essere questo. Proviamo a prendere un foglio, la pinza che si fa tra pollice e indice è molto importante nella quantificare la funzionalità della mano, e casomai può essere una spia importante nel caso di eventuali processi patologici. 800 24 00 24, Carmelo Lauricella, che oggi in regia la parte tecnica, mi sta sventolando il foglio per dire ce la faccio bene, è logico, ma allora, noi dobbiamo, primo passaggio fatto, prima, e noi dobbiamo capire anche se avvertiamo non solo dolore ma anche qualche tensione, vero? Assolutamente, sempre, visto che il pollice è continuamente coinvolto nella nostra quotidianità e funzionalità, a volte anche il semplice movimento che si chiama in termine tecnico di opposizione, che ci distingue dagli altri primati, come si suol dire, il famoso pollice opponibile, ma tradotto significa portare il pollice verso il palmo della mano, avvicinarlo alle altre dita. Questo, il sentire ad esempio una sensazione di tensione, se non di dolore, in questo movimento, può anche essere, anche esso essere spia di un qualche problema. Quindi pollice, aprite la mano, pollice, andate a toccare la base del mignolo. Del mignolo, assolutamente. Eccolo qua. Se sono tutti qua che provano, provate anche voi e chiamateci. Che cosa avvertite? 800 24 00 24. I ragazzi lo usano per scrivere messaggi, come ci ha raccontato Anna Meldolesi. I piccoli invece lo succhiano per trovare conforto, per addormentarsi. In linea con noi il professor Luca Levrini, odontoiatra e docente di ruolo dell'Università degli Studi dell'Insubria. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, buongiorno. Professore, i bambini hanno a portata di mano un succhiotto, anzi due, straordinario, ma ne preferiscono sempre uno, che è il pollice, e ne approfittano, succhiare il dito da conforto, funziona anche un po' da nanna, che dice, noi lasciamo fare o questo può compromettere la buona, la crescita sana dei denti e anche magari rovinare il palato? Ma io direi di lasciarlo stare fino ai 6-7 anni, è un gesto naturale fino a quell'età. È chiaro che oltre diventa un gesto innaturale, come tale può compromettere sia la disposizione dei denti, sia alcune funzioni. È evidente che se crea dei danni, questi però sono correlati al tempo, cioè se succhia solo per addormentarsi sono pochi minuti e quindi il danno oltre i 6-7 anni potrebbe essere rilevante. Sì. Se succhia davanti un'ora davanti alla TV è diverso e quindi le alterazioni potrebbero determinarsi in modo più evidente. Ora, questa considerazione mi porta subito a portarvi un suggerimento. Sì. E quindi annotiamo e segniamo, cerchiamo di capire quali sono le situazioni in cui il figlio mette il dito in bocca. E il suggerimento a questo punto è: quando lo mette, non rimproveratelo e non dite mai non mettere il dito in bocca, perché di fatto questa frase, che è frequentissima, che la mamma ripete ogni volta che il bambino succhia, porta un imbarazzo nei confronti del bambino, perché da una parte non vuole deludere il genitore e dall'altra, interrompendo la suzione del pollice, interrompe qualcosa che gli piace. Fa piacere. Allora, il suggerimento invece qual è? Non diciamo mai non succhiare, piuttosto, siccome abbiamo annotato le situazioni nelle quali lo fa frequentemente, lodiamolo quando non lo sta facendo, per cui piuttosto diciamo bravo, non stai succhiando il pollice, e perché sono il messaggio è uguale, cioè gli si dice e si fa notare che qualcosa non va, ma diventa positivo, condiviso e non di contrasto. Quindi dopo che abbiamo annotato le situazioni nelle quali lui lo fa frequentemente, quando non lo fa, bravissimo, lodiamo, diciamo, bravo, non lo stai facendo e siamo tutti insieme contenti. In questo modo, col passare dei mesi, l'interesse del dito cessa, viene meno e quindi diventa un fenomeno transizionale che passa, ecco. Professor Levrini, per i genitori che hanno a casa, vivono con un godereccio succhiatore, di un bambino che si addormenta, guarda la TV o mentre magari ascolta, succhia il dito, quali sono i controlli che possono fare da soli per capire se questo succhiotto naturale ha prodotto magari o sta iniziando a produrre qualche problema? Allora, mettere il dito in bocca significa inserirlo tra i denti, al di sopra della lingua, e ogni cosa che si interpone tra i denti sposti i denti. In questo caso allontani i denti dell'arcata superiore con quelli dell'arcata inferiore, determinando quello che i dentisti chiamano morso aperto. In realtà è semplicemente uno spazio che c'è tra i denti sopra e i denti sotto, si crea un piccolo buco. Quindi la cosa da fare è guardare se in bocca gli incisivi superiori sono in corrispondenza degli incisivi inferiori. Se invece c'è un piccolo buco, questo potrebbe essere il primo segnale che porterebbe, a mio giudizio, suggerimento di andare da un odontoiatra per verificare le cose. Anche se il bambino è molto piccolo, ha 2-3 anni? Anche se è molto piccolo, anche se è una cosa transitoria, perché poi viene monitorato. Professor Levrini, meglio il dito o meglio il ciuccio? È meglio il ciuccio, perché di fatto il ciuccio è un qualcosa che il bambino non può, può togliere, mentre il dito è eliminabile, non si può eliminare. L'altra cosa che potrei dire è che non dimentichiamoci che il bambino, quando succhia il dito, non è che va in bagno a lavarsi le mani, fa in modo istintivo, certo. Lo fa in modo naturale. E quello che però si dice anche quello che non strozza ingrassa, no? I nostri bambini sono così puliti che lei giustamente fa il dottore. Grazie professor Levrini per essere stato con noi, buona giornata. Grazie. E noi torniamo ad occuparci del pollice, che forse succhiavamo da piccoli e che adesso che siamo cresciuti dobbiamo però tenere da conto, perché se da piccoli ci confortava, adesso ci avvisa se qualcosa nella nostra mano è a rischio. Vi abbiamo suggerito due test. Il primo è di prendere prendere un foglio con tra le due dita, il pollice e l'indice, e l'altro è un test che ci permette un po' anche di capire come sta la nostra mano in generale, ed è quello di mettere il pollice, di allungarlo fino alla base del mignolo. 800 24 00 24, abbiamo Cosimo che ci chiama da Roma. Buongiorno Cosimo. Sì, buongiorno a voi, buongiorno al professore. Premetto che io uso normalmente, ho 49 anni, uso normalmente i pollici per chattare e digitare, quindi anche ad una buona velocità tengo bene il foglio tra indice, quindi, e pollice, e tocco il mignolo. Perfetto. Ma ho un altro quindi, problema. Beh, meno male. Allora, meno male. Io pratico uno sport particolare, sono un appassionato di tiro al volo. E tra l'altro a 49 anni, oltre alla corsetta, non puoi fare più tante cose. Ho un problema quando carico i colpi nel caricatore. Praticamente passo la mia giornata a sparare, caricare i colpi e quant'altro, e quella sera avverto un bruciore fortissimo alla base del pollice. Perché è stato troppo stimolato questo pollice? Beh, sicuramente, ma anche rientra credo anche nel posizionamento dell'arma che usa per sparare. E torniamo proprio, diciamo che questi due elementari test sono positivi, però questo bruciore che prova a fine giornata dopo che ha impegnato il suo pollice può essere già una spia di un problema degenerativo dell'articolazione, perché alla base del pollice dobbiamo sempre pensare che l'articolazione può iniziare ad avere dei piccoli danni che possono portare alla lunga un processo artrosico. D'altra parte è sempre anche da verificare come funzionano i nostri tendini, cioè gli elastici delle nostre ossa e articolazioni, che possono un po' subire le irritazioni, l'overuse, come si usa, o abusing in termini anglosassoni, che vanno sempre in sovradosaggio della funzionalità, e questo potrebbe essere anche un po' una sorta di prezzo che paga a un uso continuo appunto col computer e con in questi casi, se noi sappiamo che sforziamo molto, adesso questa puntata siamo partiti con il pollice, ma naturalmente se abbiamo anche qualche altra piccolo dubbio abbiamo sulle altre 5 dita su una mano. Noi possiamo. Ecco, c'è una sorta di prevenzione, dottore, perché potrebbe essere magari, non so, utilizzare un tutore, cercare di risparmiarlo un po'. La mano è un po' ingrata in questo, perché la prevenzione può essere sì occupazionale, la definirei, quindi cercare di limitare alcuni tipi di movimenti esagerati, almeno nella frequenza, cercare di correggere alcune posture. Anche la mano ha delle posture particolari, ad esempio anche nel prendere alcuni oggetti, visto che questa manovra è una manovra traumatica per l'articolazione che sta alla base del pollice, si chiama trapezio metacarpale, così do anche dei nomi tecnici, perdonatemi, ma se no è troppo generico. e quindi un po' di prevenzione c'è, abbiamo anche dei tutori che però come tali vanno un po' a limitare poi la vera funzionalità della mano, quindi la quotidianità del gesto può essere limitato dal tutore. Apro una piccola parentesi, spesso i tutori per la mano vengono usati di notte, perché la notte è un momento in cui la mano non sembra ma è soggetta a notevoli sollecitazioni. Il nostro sonno non è un sonno più o meno agitato a seconda questo individuale, però è un sonno in cui il nostro organismo si muove, le nostre articolazioni sono in una posizione prevalentemente fetale, quindi sono soggette le mani ad avere delle sollecitazioni, quindi la notte è un ottimo periodo in cui i tutori vengono usati. La mano, ripeto, è un po' ingrata come prevenzione rispetto ad altre articolazioni, perché la usiamo sempre, perché ha alcune strutture muscolari importanti ma che non riescono a proteggerla più di tanto, e quindi in realtà la propria prevenzione è più spesso una speranza, un tentativo di impedire, di limitare certe situazioni un po' pericolose piuttosto che veramente risolutive. Dottor Zamarelli, noi possiamo vedere e prevedere come sarà la nostra mano in futuro guardando la mano dei nostri genitori? Indubbiamente, c'è una predisposizione genetica sempre. E a volte, anzi io ormai per deviazione professionale guardo sempre le mani e posso un po' anche fare una specie di lettore di una sfera di cristallo. Voglio avere questa presunzione. Cosa mi capiterà? Purtroppo c'è quel quinto dito che non è molto buono. Poi gliela... Va bene. Oddio! Devo a volte dire delle cose poco gentili. E ripeto... Perché stortignacolo? E inizia ad avere quelle piccole nodosità, ma adesso non... Allora, anche voi, perché mica solo io. Guardate, noi siamo partiti dal pollice. Assolutamente. Ma guardate anche... Anche le altre dita. Sì, e il mignolo è dritto. fritto o un po' stortino? Diciamo che a volte delle piccole... Che è carino, che assolutamente ha delle bellissime mani, però diciamo che il mio è sempre uno sguardo un po' deviato, nel senso buono, nel senso professionale, per cui delle piccole nodosità sulle piccole articolazioni, quelle delle falangi, possono già essere presuntive per una eventuale evoluzione. Sono come quelle stropicciamenti sul viso. Quando noi dormiamo ci sono delle volte che ci alziamo e vediamo che abbiamo la faccia un po' stropicciata, il segno del cuscino. Poi nel corso della giornata ritorniamo come nuovi. Ma quel segnetto lì, un po' come il vorrei nodino... Vorrei che fosse un cuscino alla causa, in realtà. Il nodino è anticipato di un problema, diciamo, che sì. Può evolvere negli anni, ma noi siamo qua per questo, per fare prevenzione laddove si può fare, per confrontarci con i nostri esperti, per chiedere consiglio, per raccontare che cosa ci sta capitando. Molti di voi mi stanno scrivendo al 349-238-6666 che hanno succhiato il dito, ma per tanto tanto tempo, arrivano 10-11 anni, io l'ho succhiato fino a 15, insomma si vede che anch'io ho succhiato il dito a lungo, e quindi 800 24. Anzi, 0024. Abbiamo Cristina che ci chiama dalla provincia di Milano, vediamo se riusciamo a sentirla, se Carmelo non vede, prima dei mercati. Cristina, buongiorno. Buongiorno a lei, signora Nicoletta. Sono eccoci qua. Sono contenta di sentirla. Anch'io. Senta, in breve, io ho un problema con quello che definiscono il dito a scatto, il pollice. Mi era già successo l'anno scorso e l'ho fatto vedere, ma per caso, era una festa, c'era un ortopedico, un medico, che mi ha detto: guarda, fammi vedere subito. Ha toccato, ha detto: resisti un attimino, ha schiacciato, ha premuto moltissimo e effettivamente nel giro di 2 o 3 giorni il dito è andato a posto. Adesso mi è tornato invece sull'altra mano, per la destra. Bisogna andare di nuovo alla festa e incontrare questo dottor. No, mi ha detto che probabilmente era un inizio di una forma, non so, di ciste, e mi ha spaccato la capsula adesso, non so se sono i termini corretti. Sì. Chiediamo al nostro dottor Smarelli. Non so, adesso sulla lungi da me dal avere la verità assoluta, ma sono quadri, diciamo che di solito queste dita a scatto sono l'espressione di una infiammazione, di un tendine, che è un flessore lungo del pollice, che ci permette di muovere l'ultima falange. Il tendine entra in un canale che è come una galleria, l'infiammazione ne aumenta il volume e quindi non c'è più un adeguato rapporto tra il contenente e il contenitore, ok? E l'aver schiacciato quel punto, il punto in cui il tendine entra in questo canale digitale, e aver tolto una piccola cisti che si può formare proprio frutto di questa degenerazione, può essere stata una manovra, se mi si permette, anche un po' fortunata, che comunque ha risolto temporaneamente il caso. Quindi o incontra di nuovo quel medico, insomma, oppure unisce meglio l'utile al dilettevole, direi. Essere e benessere. Morticia sta cercando di dirci qualcosa. Parla, mano. Smetti di balbettare. Che cosa? Caro, ci sta dicendo che c'è qualcuno alla porta. Ah, tu e mano. Che intesa perfetta. Fate parlare le vostre mani, componete il nostro numero verde 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, se invece volete mandarci un messaggio fatelo al 349-238-6666. Dottore, io ho un ascoltatore che ci scrive, Giampaolo, ha 50 anni, e mi scrive: da qualche mese ho perso parzialmente la sensibilità dei polpastrelli del mignolo e dell'anulare della mano destra. Da che dipende? Con il pollice nessun disturbo. Evidentemente ha fatto il test di autovalutazione che lei ha suggerito. Io intanto mi guardo sconfortati i miei mignoli, che mi sembravano così carini, adesso forse saranno malati. Vabbè. Ma torniamo, intanto li abbiamo postati naturalmente su Facebook, poi mi farà una diagnosi, ma questa sensibilità. Ecco, la mano è un insieme di tante strutture e apro la parte dedicata ai nervi. La mano è molto importante come organo della sensibilità, ci permette di poter sentire tutto, di capire se una cosa fa male o bene, calda, fredda, che tipo di sensibilità, quindi si chiama propriocettiva, quindi anche capire i diversi tipi di pressione da dare, quindi insomma è veramente un computer. I nostri polpastrelli sono dei piccoli computer che danno al nostro organismo continuamente mille informazioni. Noi al buio possiamo muoverci, possiamo anche capire cosa stiamo facendo, per cui veramente la mano è un organo quasi indipendente per certi versi. Però a questi, tutti questi vantaggi ovviamente c'è sempre un risvolto della medaglia e i nervi che noi abbiamo che si occupano della sensibilità della nostra mano possono avere dei problemi. Il problema più classico, più importante, più frequente che noi riscontriamo nella nostra pratica quotidiana è la famosa sindrome del tunnel carpale. Che cos'è? È un intrappolamento, una compressione di un nervo, si chiama nervo mediano. La compressione è al polso, quindi all'entrata, in quella che è l'anticamera della mano, e può dare tipicamente questi formicolii, quindi queste strane sensazioni, spesso molto fastidiose, soprattutto nelle fasi iniziali, tipicamente di notte, e quindi questo sorprende il paziente, ma in realtà sempre lo riconduciamo a quanto dicevamo prima, Prima, della certo. posizione che la mano ha, la posizione fetale, la mano e il polso hanno durante il sonno. E può essere scatenata da alcune altre situazioni, come il leggere, tenere un libro, il telefonino, che ormai è più importante e più usato di un libro, o di andare in bicicletta al volante della macchina, quindi tante situazioni che vanno a cambiare la posizione del polso e a tenere quindi uno stato di aumentata pressione interna a questo nervo che può quindi subire questi problemi. Non per ultimo il famoso mouse, tanti danno la colpa al Ma mouse. è a colpa C'è un oppure? aumento della pressione, una pressione sul nervo che va sui 30 millimetri di mercurio, per cui quindi abbiamo un aumento di circa 3 volte rispetto alla normale posizione. Durante il sonno questa pressione aumenta fino a 7 volte, per cui il canale carpale è anch'esso un contenitore dove abbiamo i tendini, il nervo, le strutture capsulo-legamentose, un pavimento osseo e quindi se aumenta una zona o perlomeno se aumenta anche lo spessore, di solito è il tetto che si chiama legamento trasverso volare del carpo, ovviamente la struttura più nobile che abbiamo, il nervo, è quella che ne risente di più e dà questi fastidi. Non, per il tunnel carpale la soluzione non è sempre solo chirurgica. Assolutamente, pur essendo il mio pane quotidiano la chirurgia, dobbiamo sempre andare per gradi, proporzionati al disturbo clinico, alla fase evolutiva, e vedere se possiamo avere, e ci sono, dei trattamenti conservativi che prevedono l'uso di un tutore in posizione funzionale di riposo, l'uso anche di qualche medicina all'inizio si parte con degli antinfiammatori che però alla fine non hanno una grande azione perché non c'è un vero e proprio processo infiammatorio. L'infiammazione che subentra è una conseguenza di questa compressione. Ci sono dei prodotti, si chiamano neurotrofici, che adesso servono un po' a rinforzare, a dare quasi dall'esterno dei supporti vitaminici al rivestimento dei Cosa ne nervi. pensa lei di questi? Ma sono tutti prodotti che possono essere usati all'inizio, qualche volta possono essere usati anche nel post chirurgico per rieducare e riguadagnare un pochino, migliorare e accelerare il recupero funzionale del nervo. Devo dire che di solito ben più dell'80%, nel 90% dei casi, il tunnel carpale purtroppo ha un esito chirurgico e il consiglio, senza voler fare assolutamente del terrorismo, perché guai farlo, e anche perché noi parliamo di processi biologici che non hanno una evoluzione matematica, per cui ci sono tante variabili che dobbiamo sempre calcolare. Il consiglio però è di non arrivare mai a fondo corsa sul nervo, perché il nervo e anche il trattamento chirurgico che viene fatto sul nervo è uguale a seconda della via d'accesso che si usa, piccola, grande, endoscopico o meno, ma è il nervo che poi deve ritornare a funzionare. Quindi se è in condizioni buone che può tornare a funzionare, bene, se invece arriviamo troppo tardi, quando uno ha già perso la sensibilità, la qualità del recupero è indubbiamente minore. In quanto tempo dopo l'operazione possiamo tornare ad utilizzare al 100% la È mano? un intervento noto per essere molto veloce nel Sì? recupero funzionale. I disturbi notturni vanno via veramente dopo pochissimo, se non già la prima notte. Noi comunque andiamo, ripeto, indipendentemente dall'accesso che usiamo, ad aprire un legamento che dà inserzione dei muscoli, quindi la mano comunque viene nella sua struttura modificata e quindi ha dei processi biologici di cicatrizzazione che possono richiedere a volte anche delle settimane. Diciamo che il tunnel carpale dà una funzionalità della mano piuttosto rapida, veramente in pochissime settimane. Però poi il famoso 100%, che è una cifra su cui non bisogna mai Per fare fare troppo, è troppi un'operazione di conti. marketing a volte, per cui comunque il tunnel carpale diciamo che in pochi giorni dà già una buona recupero funzionale. Poi ci sono ad esempio alcuni movimenti, come i movimenti di torsione, di rotazione, che possono essere un pochino più lunghi nel recupero proprio perché devono essere rispettati dei processi biologici di cicatrizzazione che sono molto individuali, per cui ci sono pazienti che recuperano in 15 giorni, 10 giorni e, ripeto, già dopo pochissimo, forse già la prima notte, anzi senza forse, i disturbi notturni vanno via, e altre volte in cui la funzionalità complessiva globale della mano può invece richiedere qualche settimana in più. Abbiamo Riccardo che ci chiama da Mantova e Vincenzo da Caserta. Buongiorno Riccardo, benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Grazie per l'opportunità. Ascolti, cercherò di essere velocissimo. Dopo una miriade di esami che ho fatto per un inizio di formicolio all'indice, alle prime tre dita praticamente della mano sinistra, mi è stata diagnosticata una protrusione tra C6 e C7. Domanda, siccome sono 7-8 mesi che tra osteopata, ginnastica posturale, tutto, sto cercando di sistemare il tutto, però ho ancora ogni tanto, soprattutto in posizione seduta, affaticamento, affanno al braccio sinistro e le dita, le prime due soprattutto, con una sensazione di torpore, più che un formicolio, un pizzicore, un affaticamento. Chiedevo, è possibile che dopo tutto questo tempo di trattamenti sia ancora questa protrusione? Allora, i nervi nascono dal nostro rachide cervicale, ovviamente, per cui sono proprio il terminale di tutte queste diramazioni nervose. Ci sono a volte dei quadri che vengono note col nome di cervicobrachialgie, in cui abbiamo delle sovrapposizioni di problemi sia alti, quindi a livello delle rachide cervicale con le protrusioni, e poi periferiche. L'esame è dirimente di solito l'elettromiografia, per cui ripeto, ci è un esame non invasivo? È un esame non invasivo, un po' fastidioso, perché si scatenano degli stimoli elettrici non tanto graditi a volte dai pazienti, però non è un esame invasivo ed è l'esame dirimente perché studia la velocità di conduzione degli impulsi, per cui è come se noi valutassimo in una strada da un punto a un altro punto quanto l'impulso impiega. Se c'è un rallentamento vuol dire che c'è un ostacolo. Vincenzo ci chiama da Caserta, prima delle informazioni sul traffico, buongiorno a lei, benvenuto. Salve, buongiorno a lei. Sì, io senta, volevo solo chiedere, siccome ho da 5-6 anni, forse qualcuno in più, le falangi, in particolare la mattina, che mi si bloccano, in effetti c'è uno specchiolio delle mani durante tutta la giornata, in particolare la mattina quando mi sveglio. Non ho altro tipo di problemi, per cui non ho nemmeno approfondito. Poi sei da 5-6 anni, Vincenzo. Quindi un piccolo disturbo. Essere e benessere. A 100 mani. A 4 mani. A mani nude. A piene mani. Dare una mano. A portata di mano. Allungare le mani. Mani d'oro. Mani in pasta. Mani bucate. Mani nel sacco. Mani vuote. Mani in mano. Me ne sento addosso. E siamo tornati insieme in studio con noi il dottor Davide Smarelli, chirurgo responsabile dell'unità di chirurgia della mano Humanitas Gavazzeni. Dottore, quando un problema, con un problema ci conviviamo per 5-6 anni e come ci raccontava il nostro ascoltatore, è un leggero fastidio? Sì, di solito sono buone nuove, insomma. Vorrei dire così, ma io devo sempre cercare di pensare al lato meno positivo, senza sempre ripetere voler fare terrorismo. Diciamo che la mano è anche abbastanza soggetta così a ricevere un po' meno attenzione a volte, quando il problema è quasi quotidiano. Sì. Un problema del genere potrebbe anche iniziare a nascondere, soprattutto questa sorta di legnosità delle dita, come sembra trasparire da quanto ci racconta il nostro ascoltatore, ha un iniziale problema di patologia artrosica, per cui le mani un pochino si ingrippano e hanno bisogno di quella ventina di minuti iniziale a ogni giornata, ogni mattinata, per essere un po' oliate, e quindi sicuramente eventualmente l'uso di qualche esame può essere utile per iniziare un po' a stadiare e verificare un pochino il processo, che evoluzione ha. Lei ha citato una parola, artrosi, una parola che fa paura, ecco, che ritorna in tanti messaggi nei nostri ascoltatori, soprattutto gli ascoltatori che hanno risposto al nostro invito: osservate le mani dei vostri genitori e avete quasi un'indicazione su quello che potrà capitare alle vostre mani, quindi c'è una prevenzione per l'artrosi o un'artrosi in fase iniziale? Allora, come può essere trattata, dottore? Molto importante quanti sono i segmenti in cui l'artrosi colpisce? Noi ovviamente ci occupiamo di mani, quindi sulla mano, ripeto, usavo prima l'aggettivo ingrato. Sì. Comunque stiamo un po' usando anche noi, come nelle altre grosse articolazioni, prodotti come l'acido ialuronico, che sono dei prodotti che servono un pochino a rallentarne un pochino l'evoluzione e cercare un po' di confortare l'ambiente articolare. La mano ha piccoli spazi, per cui la facilità di poter infiltrare, come può accadere in un ginocchio, in una spalla, è ovviamente estremamente ridotta. Ognuno di noi ha i propri credo e quindi non è sempre facile poter essere assoluti nelle definizioni, negli schemi e nei protocolli da dare. Ecco. Personalmente sulle infiltrazioni non le pratico tanto, se non qualche volta sull'articolazione un pochino più ma grande. Ma tolgono il dolore o rallentano il processo artrosico? Hanno un'azione, una speranza di azione duplice. L'artrosi è un processo evolutivo, mm-hmm, degenerativo. C'è un'importante componente di predisposizione genetica, ecco la familiarità che qui possiamo ricondurre i nostri ascoltatori, però è un processo evolutivo. Poi ci sono tanti altri parametri che possono essere legati alla persistenza di traumi, all'uso, al famoso overuse di un'articolazione, che possono poi portare a un'accelerazione o meno di un processo che, essendo degenerativo ed evolutivo, non è neanche quantificabile. Non possiamo dire tra 5 anni avrò questo, tra 8 anni avrò quest'altro. Ci sono però dei segnali che è bene conoscere, che le nostre mani ci mandano, e per i quali è bene non temporeggiare, ma magari richiedere una visita o parlarne naturalmente col medico di base. Quali sono, dottore? Anche lì bisogna sempre distinguere il tipo di struttura interessata, perché nella mano abbiamo tante strutture. Sicuramente una difficoltà nel movimento dei dolori a inizio giornata, a fine giornata, o difficoltà a fare certe cose, una mano che è un po' più legnosa può predisporre ad andare a ricercare un po' come stanno le nostre articolazioni, quindi la classica radiografia può essere un primo esame di base. Il formicolio, alterazioni della sensibilità, ci danno una spia su un processo a carico dei nervi, e quindi una elettromiografia può essere un esame molto importante. E poi abbiamo eventualmente i classici dolori da tendinite, che sono un po' l'anticamera delle dita a scatto, dove la diagnostica in realtà è complementare. Possiamo fare eventualmente la classica ecografia per vedere se casomai si forma anche qualche cisti, però spesso è la clinica che ci guida in questo. Quindi, dottore, in sostanza le mani dobbiamo rassegnarci a non, insomma, quello che capita alle nostre mani, e poi noi le usiamo non tanto. Possiamo prevenire, non possiamo. Ripeto, è appunto, è un pochino ingrata, perché a differenza di altre strutture, come ad esempio le ginocchia, dove il carico è molto importante, ma non possiamo correggere alcuni assi o rinforzare la muscolatura. Quindi insomma, i miei mignoli li tengo così. Per ora sì. Per ora sì. Ma noi facciamo un salto nel futuro, che in realtà è già qua, e infatti c'è già qua Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buongiorno a tutti. Un futuro che è già presente, perché sì, abbiamo, sì. Vero? Adesso per chi non riesce ad usare i pollici velocemente, quindi a scrivere come scrivono i ragazzi, possiamo mandare un messaggio assolutamente rassicurante. Sì. Perché? Allora, partiamo perché, da poco per alcuni paesi, per l'Italia da dicembre, perché arriverà un po' più tardi rispetto ad altri, l'iPhone nuovo. Allora, mm-hmm, iPhone fa un'innovazione. Apple ha detto, ma invece di mettere la password, il PIN per sbloccare il telefono, usiamo il pollice, ma in realtà tutte le altre dita, cioè l'impronta, sì, digitale. Mm-hmm. Allora, diciamo che non è una novità assoluta, perché da una decina di anni almeno su alcuni computer portatili c'è, sì, il lettore di impronta digitale, sì, ci sono altri sistemi che possono essere installati in vari insomma non è una novità assoluta. È vero che Apple l'anno scorso ha speso, pensate, più di 300 milioni per comprare un'azienda che ha una tecnologia che pare molto sofisticata, e quindi dovrebbe diventare tutto molto più semplice, perché è vero che fino ad oggi i lettori molto economici, che sono quelli che vanno su uno smartphone, non erano così affidabili, cioè bisognava spendere un po' di soldi per avere un lettore affidabile che leggesse molto bene l'impronta del nostro dito, sì, quindi non solo del pollice, anche dell'indice, di tutte le dita. Anzi, direi che forse è meglio, consiglierei di registrare sui lettori di impronte digitali, che possono appunto sostituire le password, possono sostituire anche le chiavi di casa. Allora, nella casa di mia mamma c'è un lettore di impronta digitale, perché lei si dimenticava spesso le chiavi, allora io ho detto ma mettiamo un bel impronta digitale così il dito non te lo dimentichi. Però vedi, tornando a quello che dicevo prima, fortunata, ecco, è la mamma di Enrico Pagliarini. Sì, ci ho messo un po', però diciamo che dai, risultati è arrivato. Bravo. No, dicevo, consigliabile usare più di un dito, perché se non arriviamo al caso in cui magari lo perdiamo proprio perché qualcuno ce lo taglia, però sì, però poi i dottori lo riattaccano, lo possono riattaccare, però diciamo è il nostro che, dovere, se possiamo sì, è il nostro potrebbe lavoro. Danneggiare. Quindi tu dici usatene di più, no? Fate sì, assolutamente. Sì, esatto. Poi ecco, un'altra cosa che forse va detta è che diciamo il lato negativo di tutto ciò è che se perdo la chiave posso cambiare la chiave. Sì. Se qualcuno invece mi intercetta l'impronta digitale, cosa che in modo molto complicato, molto costoso si può fare, purtroppo non è che posso cambiare le chiavi, l'impronta digitale quella è, quindi certo, non me la posso cambiare. E quindi il consiglio però di Paglia qual è? Ah beh, qui il Paglia inteso come Pagliarini, non consiglio di sì, Potaglia sì, inteso come consiglio. No, beh, qui c'è poco da dire. Allora, diciamo che la comodità, la comodità con la quale noi usiamo e useremo sempre più questi sistemi che riconoscono i nostri dati biometrici è talmente alta che probabilmente le preoccupazioni rimarranno in sottofondo, però certo che può essere un problema. È anche vero che se io sono un'organizzazione così interessata ai dati di una persona e spendo soldi ed energie per rubare l'impronta digitale, beh, vabbè, certo, vabbè, probabilmente insomma siamo un po' nel lato diciamo elevato della società, con poche persone che hanno dati così sensibili. Certo però che anche i problemi di privacy, insomma, il tema della privacy è un tema molto molto delicato e molto importante. Grazie ad Enrico Pagliarini per essere stato con noi. Buongiorno a tutti. Dottore, chiudiamo con una domanda che io leggo almeno 12 messaggi. Schioccare oppure, come scrivono alcuni, scroccare o schiocciare le articolazioni, immagino che siano tutti verbi per dire di fare quello che sto facendo io in questo momento, fa bene, fa male, fa nulla? È sconsigliato, perché comunque diamo degli stress alle articolazioni che non ne hanno bisogno, visto che le mani le usiamo tanto. E allora non stressiamo le in questo modo. Grazie al dottor Smarelli. Grazie per essere stato con noi, a Carmela Lauricelli in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in redazione. Io vado a farmi dare un'occhiata ai miei mignoli e poi vi racconto che cosa mi ha detto. Buona giornata. Essere e benessere.